si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori che si sono sintonizzati oggi con un po' di ritardo, siamo entrati per questa puntata che insomma ovviamente è un po' diversa da quella che ci siamo immaginati nel costruirla, no? Perché le notizie della notte, anche se non definitive, insomma comunque questo decreto cambierà un po' la nostra vita ovviamente come cittadini lombardi ma anche come italiani, perché comunque lo sconsiglio a muoversi, le regole di prudenza valgono per tutti, mica solo per noi che stiamo in Lombardia. Iniziamo noi, ma giustamente di modo che non debbano farlo anche altri, speriamo, nel senso speriamo di bloccarla qui, ecco. E come ricordavi tu, tra l'altro, insomma, quella che abbiamo quasi tutti letto è una bozza, ci sembra tutti una follia che siano addirittura uscite le bozze prima del decreto definitivo. Comunque stiamo allerta e stiamo tranquilli. Esattamente, un tema di cui parliamo tra pochissimo con il nostro ospite che è impegnato anche in attività sportive di cui poi ci parlerà lui. Ma tu invece cosa ci presenti? Guarda, io volevo parlarvi di un interessantissimo documentario sull'intelligenza artificiale che si intitola AlphaGo e di come mi abbia invogliato subito dopo a leggere anche Il maestro di Go, che è un classico scritto nel 1942 dal premio Nobel per la letteratura Kawabata, giapponese, che vi consiglio vivamente di recuperare. Anzi, vi consiglio caldamente la combo doc e libro, AlphaGo su Netflix e Il maestro di Go edito Einaudi, per un impegno totale di 7 ore circa. Poi se vi innamorate del gioco del Go, probabilmente l'impegno si allungherà per tutta la vita. Io sono alla lezione numero 1 sul canale YouTube del Go Club Milano, che ho scoperto, di cui ho scoperto l'esistenza l'altro giorno, ma al momento ho solo capito che è un gioco enorme con delle regole semplicissime, tipo la vita, e ho un po' paura che inizi a piacermi sul serio, dico, il gioco del Go. Però, come ci siamo detti prima, sta storia del virus modifica i nostri pensieri, le nostre abitudini, da oggi modificherà profondamente la nostra quotidianità più spicciola nelle zone rosse come l'intera Lombardia, è inevitabile che influisca su tutto. Restano dunque i consigli di lettura e di visione, particolarmente utili in questo periodo che ci aspetta di segregazione casalinga e senza contatti, ma vorrei dire anche un'altra cosa, sento nonne che si arrabbiano perché i figli sono troppo ottimisti e portano i nipoti al parco a giocare, sento anziani che si lamentano perché i figli sono troppo severi e gli vietano di uscire anche solo sul balcone. Ho sentito urlare all'apocalisse, gridare smettetela di esagerare. C'è chi stringe ancora la mano dicendo vabbè, ormai ce la siamo data, cosa dobbiamo fare? C'è chi mangia con la mascherina dopo averci fatto un buco con la forchetta. Tutti facciamo errori, nessuno sa esattamente come deve gestirla questa questione che è nuova per tutti. È corretto seguire attentamente le direttive ufficiali. È sano ammettere la propria paura. Ciò che evita di fare all'interno della propria famiglia, e dico famiglia inteso in senso largo, affetti, conoscenze, persone vicine, ciò che eviterei è di criticare in continuazione i diversi gradi di allarme, perché una cosa è indubbia, ognuno reagisce a modo suo, è un classico strumento di difesa, ma questa sciagura la stiamo vivendo tutti e tutti assieme, quindi restiamo uniti, almeno non spacchiamoci fra di noi. Concordo pienamente. Ad esempio, ho un ascoltatore che molto carinamente ci invita ad andare in Sardegna. Rispondo: ci piacerebbe, ma non restiamo. Possiamo, non esatto. Possiamo per dovere civile, appunto. Non possiamo. Ed è giusto così, perché dirsi quelle cose del tipo: ma io sto benissimo, il virus è questo. Ora il problema del benissimo. Virus è che esatto. non sappiamo chi già ce l'ha, chi non ce l'ha. E quindi, se ci dicono di star fermi, stiamo fermi. Dall'altra parte, sappiamo anche noi che il Premier Conte ha firmato. Aspettiamo il decreto in Gazzetta Ufficiale. Sappiamo anche appunto quello che contiene, perché sostanzialmente ce l'ha detto il Premier, e non sappiamo come poi dopo praticamente ci dovremo muovere. Questo ovviamente sarà molto importante. Come sempre 824 0024 per i vostri interventi. Oggi c'è anche la possibilità di indovinare il personaggio del giorno e vincere dei libri. Come sappiamo, adesso vinciamo libri finché i musei non riaprono. Io intanto ti presento Roberto Cavallo, che è il nostro prossimo ospite. Buongiorno Roberto. Buongiorno Laura, intanto auguri per l'8 marzo a te e alle ascoltatrici. Grazie, buongiorno, grazie. Giusto, è vero. Abbiamo parlato subito d'altro, ci siamo dimenticati che oggi è la festa della donna. Auguri Laura, perdonami. Per questa volta ti perdono, l'anno prossimo non ti perdono più. Giusto. Roberto Cavallo, rifiutologo, divulgatore ambientale, pronto per la prossima Keep Clean and Run del 2020. E ci arriviamo tra un istante. Roberto, visto che anche tu però su Facebook ti sei prodigato nei confronti di coloro che ti seguono rispetto a quello che sta accadendo in Italia per questo coronavirus, e quindi anche tu ricordavi: leggete, parlate, telefonate agli amici, collegatevi, fate come te ad esempio una esperienza sportiva un po' in solitaria magari. Ma sì, esatto. Allora, come dicevate voi, le notizie vanno prese assolutamente sul serio, lo dico anche da chi ha avuto la fortuna di insegnare questa materia all'università. Il virus non è conosciuto, non sappiamo esattamente le sue dinamiche, dopodiché la realtà sta un po' nel mezzo. Non siamo fortunatamente di fronte a mortalità come l'Ebola, ma obiettivamente il contagio è più rapido di quello che si pensava, per cui ci vuole la giustissima cautela, ma nello stesso tempo io credo sia importante comunicare anche qualche messaggio tranquillizzante. Non lo dico per non pensarci, ma al contrario, perché noi sappiamo anche che le endorfine, i nostri anticorpi naturali che abbiamo all'interno, ci danno una grossa mano. Quindi accanto alla paura bisogna avere cura di noi stessi, e quindi ci sono un sacco di possibilità di, come dicevi tu, leggere un libro, ascoltare buona musica, uscire a fare una passeggiata da soli, una corsetta, fare dei biscotti in casa con i figli o con i nipoti. Si possono fare un sacco di robe rispettando rigorosamente le indicazioni che ci sono state date. E magari ci si può anche preparare, no, come te, alla Keep Clean and Run, o comunque fare qualcosa per l'ambiente. Allora, Keep Clean and Run ormai è una esperienza consolidata, però dai, due parole per dirci che cos'è e che cosa farai da qui a non molto. Esatto, sì, beh, nasce nel 2015, ho percorso un po' tutta l'Italia, è il plogging più lungo del mondo, cioè io corro chinando la schiena, raccogliendo i rifiuti per terra, ma soprattutto coinvolgendo migliaia di ragazzi che insieme a me un po' corrono, un po' puliscono un pezzo dell'Italia e non solo. E in fondo l'ho scritto anche ieri, purtroppo noi, cioè, meno male, noi riusciamo a difenderci dai virus, ci sono animali che in realtà quando vengono in contatto con i nostri scarti non possono difendersi, e quindi la cosa migliore è prevenire, raccogliere i rifiuti per terra prima che vadano al mare. Quest'anno abbiamo tre parole chiave nuove che sono internazionalizzazione, quindi andiamo all'estero. La seconda è Mediterraneo, dobbiamo salvare il Mediterraneo, 1% della superficie marina col 7% dei rifiuti, uno dei mari più inquinati del mondo. E terzo, pace perché penso, in qualche modo declinando il messaggio di Daniel Miller, un antropologo londinese, che i luoghi sporchi sono in guerra, i luoghi puliti sono in pace. Io voglio dei luoghi puliti in pace, correrò sui luoghi della prima guerra mondiale. Coronavirus permettendo, partirò il 18 di aprile da Cortina d'Ampezzo e arriverò, spero sano e intero, il 28 di aprile a Trieste dopo 420 chilometri e qualche migliaiata di metri di salita. E passando anche per la Slovenia, questo ci sembra un bel segno, anche il fatto che sia di cucire una, esatto, che sia una corsa anche internazionale. E poi giustamente, essendo i luoghi di teatro del primo conflitto mondiale, ci sembra che la Slovenia sia perfetta, insomma. Ma sì, l'idea è proprio questa. Poi sappiamo che oltre ci sono i luoghi della prima guerra che conosciamo, le trincee, ci sono le foibe, quindi l'idea è proprio di non perdere la memoria e ricordare che se noi viviamo in un mondo pulito, in un mondo pulito di relazioni, pulito dai rifiuti per terra, ma anche pulito appunto tra di noi, quel luogo è in pace. Come diceva Don Pino De Masi, proprio nel film di Calopresti, Immondezza, sulla mia corsa di 3 anni fa, mi diceva: attenzione, sono le mafie che vogliono i luoghi sporchi perché poi se ne appropriano, perché diminuisce il senso di appartenenza. Noi dobbiamo avere questa forza di tenere i luoghi puliti e rimanere coesi come dicevate anche prima, in momenti come questo. Grazie Roberto, grazie molte. Dal 18 al 24 di aprile, come dicevi, coronavirus permettendo, Keep Clean and Run, la corsa che è l'evento centrale italiano della campagna europea Let's Clean Up Europe, sostenuta poi dai vari consorzi del CONAI. E adesso abbiamo la viabilità, grazie, a presto. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Per indovinare il personaggio della settimana. Che dici, Carlo? Diamo il primo indizio, perché altrimenti come fanno a indovinare? Sì, assolutamente sì. Abbiamo iniziato un po' in corsa e quindi dai il primo indizio. Vado. Perché è giusto, oggi è giorno di indovinello. Come già diceva prima Laura, noi cerchiamo un personaggio della settimana che ha anche una notizia legata a sé, avvenuta questa settimana, e noi ve la chiediamo, quindi preparatevi quando chiamate. Prego. Esatto. Laura, il personaggio della settimana, uomo, donna, avvenimento, eccetera eccetera, è un esempio per tutti. Spremetevi le meningi, già potete chiamare all'800 24 00 24. Nel frattempo, mentre pensate, noi vi presentiamo Paola Gianotti, ciclista che percorrerà il Giro d'Italia con un giorno di anticipo a partire dal 10 di maggio. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Perché lo fai? Questa è la grande domanda. Lo faccio per un motivo importante, per la campagna sul rispetto del ciclista sulla strada. In Italia purtroppo muore un ciclista ogni 35 ore, quindi sono un paio di anni che porto avanti questa campagna proprio sul rispetto del ciclista. Quindi una causa importante che tu porti avanti. Beh, tu hai una grandissima carriera da ciclista, due volte leggo nel Guinness dei primati per le sue imprese ciclistiche, tra cui il Giro del Mondo in solitaria. Sarà il terzo della sua carriera da ultracycler. A proposito del fatto che hai già fatto appunto il Giro del Mondo in solitaria, la situazione per i ciclisti è pericolosa in Italia tanto quanto nel resto del mondo, o diciamo peggio? Beh, in questo momento è difficile da identificare, è un momento un po' particolare, quindi bisogna vedere insomma cosa ma da un punto di vista della sicurezza stradale, intendo. Della sicurezza stradale l'Italia sì, purtroppo si delinea come uno dei paesi peggiori, perché appunto c'è questo un ciclista che muore ogni 35 ore, due pedoni al giorno, mentre nel resto del mondo non è così grave la situazione. Io ho portato anche le firme del premio Nobel alla pace della bicicletta quando è stata candidata nel 2016. Sono partita da Milano per arrivare fino a Oslo, e da Milano, una volta che purtroppo ho lasciato l'Italia, sono entrata in Svizzera, ho solo percorso piste ciclabili dalla Svizzera alla Germania, fino poi chiaramente nei paesi nordici. Quindi la situazione in Italia è ancora troppo, parecchio drammatica. Sì, l'anno scorso io sto portando avanti questa campagna insieme a Marco Cavorso, che è il padre di un ragazzo che nel 2010 è stato ucciso da una macchina, travolto da una macchina, che ha fatto un sorpasso su linea continua di quattro macchine. E l'anno scorso abbiamo portato in Parlamento una proposta di legge per modificare il codice stradale, per fare in modo che le macchine sorpassino almeno ad un metro e mezzo di distanza, che vuole essere un modo per cercare di cambiare la cultura delle persone, far capire che alle persone che sulla strada non ci sono solo le macchine, non sono solo gli automobilisti, ma ci sono anche i pedoni e i ciclisti. E questo è il motivo per cui sto anche diffondendo la cartellonistica sui vari comuni d'Italia e tantissimi comuni mi stanno contattando per posizionare proprio questa cartellonistica con scritto di sorpassare ad un minimo di 1,5 metri di distanza, cartellonistica che è già presente tra l'altro in tutta Europa, quindi noi dobbiamo seguire semplicemente l'esempio di quello che fanno i nostri vicini di casa per riuscire a sensibilizzare le persone al fatto che appunto in strada non si può morire in strada, perché non ci sono più le fatalità, gli incidenti, è proprio una quotidianità l'incidente che succede tutti i giorni e il ciclista morto sulla strada tutti i giorni. Purtroppo sì. Ah, scusa, volevo dire semplicemente che al di là della cartellonistica, per esempio, i nostri ascoltatori da questo momento in poi possono tenere presente quella distanza di cui ci hai detto. Cioè, la cartellonistica ovviamente ci vuole, però insomma una coscienza l'abbiamo già adesso, anche senza i cartelli. Sì, sì, infatti assolutamente sì, solo che quando si vedono poi i cartelli è un po' come la pubblicità, quindi a forza di vederli ci si ricorda che meglio bisogna passare a distanza, vero. È meglio così ci focalizziamo su più di più. E poi ci sono già i cartelli stranieri, quindi tanto vale, basta prenderli e farli identici. Ma io ti volevo chiedere un'altra cosa, siccome come ben sai tutte le volte che poi si parla di sicurezza, di ciclisti, allora ci sono anche gli automobilisti che iniziano a dire ma sono i ciclisti che sono indisciplinati, sono loro che sbagliano, sono loro che non mettono le luci e non hanno l'assicurazione e così via. E siccome ho letto una cosa molto bella che hai detto te, ovvero la contrapposizione tra ciclisti e automobilisti non ha senso, volevo chiederti se ci lasciavi con una parola per riconciliare automobilisti e ciclisti, invece che arroccarsi ognuno sulle proprie difese, un po' come stiamo dicendo per il virus, siamo tutti insieme, siamo tutti dalla stessa parte, né i ciclisti vogliono che muoiano gli automobilisti né viceversa, anche perché la maggior parte delle volte siamo fratelli e sorelle. Bellissimo, bellissimo, penso che la parola chiave sia rispettiamoci in strada tutti insieme, quindi noi ciclisti dobbiamo rispettare il codice della strada, tenere le luci accese, essere visibili e fare attenzione, e così gli automobilisti, quindi penso che la giusta convivenza sia il rispetto non tanto l'uno dell'altro ma il rispetto della vita sulla strada, che è la cosa più importante di tutte. Grazie. Grazie mille. Grazie Paola, grazie in bocca al lupo per tutto, anche per questa campagna, e ovviamente ricordiamoci tutti di rispettare i ciclisti che sono sicuramente una parte debole come i pedoni sulle nostre strade. I ciclisti ovviamente a loro volta rispettino il traffico. Noi abbiamo adesso ovviamente la pausa per GR24. Vorrei solo commentare che abbiamo benissimo presente, vero Carlo, la situazione in giro per la Lombardia, ma non è che... Certo. A chi stai rispondendo? All'ascoltatore che ci dice ma come, spero che siate indifferita, perché come si fa in una Milano silente a parlare? Si parla proprio... Ma per fortuna, anche perché si sta parlando che tutto ciò andrà avanti fino al 3 aprile, vorrei dire, non è che pensiamo di parlare di coronavirus fino al 3 aprile ininterrottamente, nel senso che una volta dette dobbiamo ricordarci le misure, le precauzioni, noi preferiamo vivere e tenerci compagnia, come abbiamo ripetuto più volte. GR24, torniamo subito dopo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Le 9:07, torniamo in studio. Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a te Laura. In questa giornata che non è Bloody Sunday, ma sicuramente è una giornata difficile per tutti noi che viviamo in queste regioni, che sono interessati da questo provvedimento così stringente che, ripeto, è stato firmato, non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e del quale non abbiamo ancora le specifiche di applicazione, cioè non sappiamo rispondere in questo momento alle vostre domande su posso andare da qui a lì, posso andare a trovare la zia, posso andare al lavoro domani e come, di cosa avrò bisogno, avrò bisogno di un documento, avrò bisogno, non lo sappiamo, un permesso, il datore di lavoro. Quindi pazienza, vi daremo tutte le informazioni, ovviamente via via che saranno definitive, che saranno ed ufficiali. Diffidate dei grandi WhatsApp, delle catene in questo momento, diffidate dei post su Facebook dell'amico che conosce l'assessore che però non è più assessore ma lo è stato 3 anni fa. Ma una volta ha fatto sanità. Esatto, diffidate al momento, diffidate e aspettate i canali ufficiali. Questo, diciamo, è il consiglio che ci sentiamo di darvi in questo momento. Vi ricordo 824-0024 per concorrere e indovinare il personaggio della settimana di cui al momento abbiamo dato questo primo indizio, che adesso lo ritrovo. È un esempio per tutti. Bravo, è un esempio per tutti. Vi potete prenotare adesso, tra pochissimo vi possiamo, anzi forse abbiamo... ho chiuso la finestra, tu riesci abbiamo, a vedere? Abbiamo Gaetano da Napoli. Vedi, bravo, Gaetano da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, chi è il personaggio della settimana secondo lei? Secondo me è il governatore del Lazio Zingaretti, perché ha dimostrato una serenità nell'affrontare il coronavirus e dando fiducia e dimostrando come ci si fa e consigliando di continuare a lavorare. Per me è un ottimo esempio. Allora, è un esempio per tutti. Sentiamo, è un esempio per tutti, la notizia sicuramente c'è, ci mancherebbe altro. Sentiamo il notaio. Non era lui il nostro personaggio, ma la ringraziamo anche della descrizione che ha fatto. Ne ha fatto, e facciamo i nostri migliori auguri ovviamente a Zingaretti e a tutti coloro che sono parte della sua famiglia e lavorano con lui ovviamente. Andiamo a Portici a questo punto, c'è con noi in collegamento il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. Allora sindaco, con lei vogliamo parlare di un progetto Air Heritage del comune di Portici, appunto, è l'unico progetto, l'unica proposta italiana che ha vinto il bando europeo Azioni Urbane Innovative. Un'iniziativa triennale, un budget di 4,1 milioni di euro. Tutto questo ragionamento e questo desiderio di parlare con lei ci è venuto dal fatto che recentemente il ministro dell'Ambiente ha detto ci saranno 170 milioni per la mobilità sostenibile nel nord Italia, e noi ci siamo detti sì, ma come verranno impiegati, perché poi dividiamo per il numero dei comuni e la cifra è un po' quella che voi avete ricevuto, riceverete con questo grazie all'aver vinto questo bando europeo. Allora voi come impiegate questi 4,1 milioni, quali saranno le vostre linee di azione? Intanto consentitemi di farvi un abbraccio forte, vero? Grazie. Noi diciamo che lo riferiamo a tutti gli italiani che ci ascoltano. Mai come in questo momento dobbiamo capire, io sono un uomo del sud, ma mai come in questo momento noi dobbiamo capire che chi ha pensato e pensa di dividere il paese, diciamo, ha pensato qualcosa veramente di assurdo e di sbagliato. Noi siamo vicini a tutto il nord del paese, siamo vicini ai nostri fratelli di Milano, di Venezia, di Parma, di Bergamo, di Cremona, dovunque diciamo sono colpiti e siamo colpiti da questo virus. O capiamo che siamo fratelli in questa vicenda, oppure non saremo mai paese e non potremo mai essere una comunità. Ha ragione sicuramente. Ringraziamo moltissimo di queste parole, soprattutto in questo momento e soprattutto dette con il giusto incipit. Io sono un uomo del sud, eppure in questo momento penso che dividere il paese sia una follia. Mi sembra un ottimo messaggio, la ringraziamo. Allora, io sono un uomo del sud, ma prima di essere un uomo del sud sono un italiano. Giusto. Quindi approfitto di questo mio status di italiano per dire che cosa abbiamo fatto. Abbiamo partecipato a questo bando europeo, siamo l'unica città italiana che è riuscita a vincere questo finanziamento, ad avere questa qualificazione al finanziamento, perché abbiamo messo insieme tutta una serie di partner e di istituzioni scientifiche. Portici ha due peculiarità, una che è una delle città più densamente popolate d'Italia, in 3 chilometri quadrati reali vivono circa 55.000 persone, e due ha all'interno di questo territorio molto ristretto un Dipartimento di Scienze Agrarie della Federico II, un istituto zooprofilattico, l'ENEA, il CRIAI, il CAMPEC, tantissimi centri di ricerca avanzata. Quindi lei ci dice la prima formula è trovarsi partner giusti per mettere insieme progetto. È sicuramente una città della scuola e del sapere, e quindi questa vocazione è stata in qualche modo decisiva per poter creare questa condizione e partecipare a questo progetto. Ovviamente i nostri partner messi insieme dalla città di Portici, tra i partner abbiamo Lega Ambiente e ARPAC, che è l'Agenzia Regionale della Protezione Ambientale della Campania, abbiamo fondamentalmente costruito un progetto che riguarda proprio la cooperazione del cittadino. Cioè, anziché, ecco, proprio in un momento come questo, anziché fare norme stringenti che costringono il cittadino ad avere, come dire, dei comportamenti di un certo modo, noi chiediamo la cooperazione del cittadino attraverso la maturazione di una consapevolezza che lo mette in condizione di avere dei comportamenti sani rispetto alla tutela dell'ambiente, soprattutto in ordine alla qualità dell'aria. Come si svolge questa iniziativa e su che cosa si basa? La cooperazione avviene attraverso uno strumento, attraverso quindi un progetto e uno strumento che sarà realizzato, che si chiama Monica. Monica non è il nome di una gentile certo, donna, vostra concittadina. Anzi, oggi è la giornata della donna, quindi ricordiamo, diciamo anche, facciamo un augurio vero e sincero a tutte le donne, soprattutto grazie, quelle sindaco, che soffrono. Però adesso ci dica Adele, che sennò poi dopo ci mantengono la viabilità. Monica e non riusciamo a parlare. Monica è un acronimo che significa monitoraggio cooperativo in qualche modo ambientale. Quindi fondamentalmente, che cosa succede? Questo apparecchio misura attraverso un'app, misura su un telefonino oppure insomma su un iPad, su un portatile, su un dispositivo portatile, mette in condizione il cittadino che si sposta di poter misurare il grado di inquinamento ambientale in quel dato momento e in quel determinato posto. Sulla base di questa misurazione, ovviamente che è una misurazione che insomma, non ha una certificazione di legge, perché voi sapete che la certificazione di legge le fa l'ARPAC, diciamo, con rilievi sulla base di una legge specifica che divide in 8 settimane i periodi di monitoraggio della qualità dell'aria per l'inquinamento atmosferico e tutte queste belle cose, ma fondamentalmente questo strumento mette in condizione il cittadino di comprendere anche dai propri comportamenti qual è il grado di contributo che dà all'inquinamento o il grado di contributo che dà con comportamenti virtuosi al disinquinamento della qualità dell'aria. Ok. Cioè, questo è il succo. Quindi i 4 milioni di euro sono utilizzati intanto per già, tra l'altro tenga conto che la metà di questi soldi già sono arrivati, già insomma, abbiamo una buona certificazione di spesa, perché sono stati innanzitutto quindi informazione alla popolazione attraverso una serie di attività nelle scuole, nei formative, centri di ricerca, certo. Formative di coinvolgimento e tutta una serie di iniziative che riguardano alcune scuole, per esempio l'utilizzo del cosiddetto pedibus, cioè i bambini, i ragazzi che vanno a scuola a piedi attraverso un concorso insomma volontario dei genitori, ovviamente con la regia della scuola e dell'amministrazione comunale. L'utilizzo di mezzi pubblici ecocompatibili, ma soprattutto diciamo potenziando il sistema di trasporto e di mobilità urbana pubblico, anche con l'imprenditoria privata. In questo momento a Porci un imprenditore privato ha messo in campo delle navette circolari che svolgono, fanno un'attività diciamo con 3 percorsi urbani, coprono tutta la città e quindi facilitano i percorsi in mobilità urbana attraverso dei mezzi collettivi rispetto ai mezzi individuali, che ovviamente per il numero diventano molto più invasivi dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Poi ci saranno una serie di scelte sulla base delle, tenga conto che sono delle rilevamenti, certo. Sono il gusto dei rilevamenti e quindi sulla base dei rilevamenti l'amministrazione comunale, il sindaco dovranno fare delle scelte di carattere urbanistico, viabilistico, che ci sarà da cambiare delle sindaco, viabilità. Sindaco, sì, certo, no, mi è chiaro, quindi va bene. Urbanistico, allora, ci sono delle zone dove c'è bisogno di investire più in parchi urbani o in impiantistica perché abbiamo una concentrazione diversa della popolazione in ordine al dato di inquinamento. Insomma, sono degli strumenti. Insomma, ce la si farà con questi soldi? Come? Ce la si farà quindi con questi soldi? Guardi, io mi sono iscritto da un po' di anni al club contrario del non sipotismo. Bravo. Perfetto, noi siamo si può fare, quindi la ringraziamo moltissimo e ne siamo convinti. Grazie mille, sindaco. Grazie mille, allora buon lavoro e ci risentiamo con gli aggiornamenti, ma ora ci sono quelli della viabilità di aggiornamenti. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Che cos'è l'amore? Chi ha il vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata. Sai che ci sono delle novità anche adesso sempre su questo tema, no, del decreto che blocca la Lombardia ma anche diverse altre città. Beh, leggo, appena uscita un'agenzia, che il Veneto si oppone alla creazione delle 3 zone di isolamento nella regione previste dal decreto. Nelle controdeduzioni inviate al governo, il comitato tecnico scientifico di supporto all'unità di crisi aveva chiesto lo stralcio delle 3 province di Padova, Treviso e Venezia dal decreto a fronte di cluster circoscritti, e quindi insomma inizia il braccio di ferro. Vedi che non è nulla di concluso e che dobbiamo avere pazienza e capire un po' come andranno le cose nelle prossime ore. Ora, io ho già ricevuto questa mattina da voi molti auguri per la festa delle donne, adesso sono io che li voglio fare a un'altra gentile signora imprenditrice che sarà nostra ospite, anzi vedo che è già in collegamento, Daria Magidi da Livorno, buongiorno. Buongiorno Laura, auguri anche a te. grazie molte. Buongiorno, auguri. Buongiorno Carlo. Imprenditrice in aziende high tech, lei stessa appunto ha... fondatrice e CEO di Daxo Group SRL, società di consulenza strategica per l'industria 4.0, e poi Daxo Lab, e poi è stata anche presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Livorno, eccetera eccetera. Daria, non faccio l'elenco, è lunghissimo, anche assessore all'innovazione della città di Livorno, quindi direi una donna in carriera sia politica sia come imprenditrice sia in famiglia, quindi direi perfettamente rappresentativa delle donne del 2020. Punto interrogativo? Direi di sì, ti ringrazio, ma penso che tutte noi abbiamo le potenzialità per fare questo. Dici? Beh, io penso di sì. Però il mondo un po' dell'imprenditoria italiana almeno appare piuttosto maschilista ancora. Tu che l'hai vissuto, lo vivi da dentro, diciamo, anche proprio negli incontri con le altre imprenditrici, perché c'è anche una rete che tu stai costruendo di donne 4.0, si chiama, no? Come lo vedi? Beh, la situazione è che purtroppo noi donne, diciamo, nei ruoli apicali siamo poche, quindi i dati ci spiegano il perché ad oggi c'è ancora questa cultura maschilista. Pensiamo che soltanto il 30% delle aziende oggi hanno una guida femminile, e quindi il 70% delle aziende hanno un maschio come capo, che volente o nolente dà un imprinting, una leadership maschile alle aziende. La situazione peggiora nelle multinazionali, dove le donne sono soltanto il 30% del management e gli amministratori delegati delle multinazionali sono quasi al 95% maschi. Quindi questo crea proprio la necessità, la consapevolezza che le donne devono essere rappresentate maggiormente e potenziate. Le grandi aziende ci stanno lavorando, stanno mettendo dei programmi di diversity e inclusion, ma non basta. Quindi noi donne per prime dobbiamo crederci e dobbiamo darci una mano. E proprio da qui è nata l'idea di creare questa community delle donne, perché 2 anni fa io ho scritto un libro che proprio si intitola Donne 4.0, dove io riflettevo sul fatto che spessissimo nei tavoli che contavano, nelle riunioni importanti, nei ruoli di rappresentanza, ero l'unica donna. Mi domandavo il perché. E allora ho scritto questo libro, Donne 4.0, per motivare le donne a credere che le tecnologie, quindi quel 4.0 sta per le tecnologie dell'industria 4.0, possono dare una mano veramente a mettere in evidenza, a dar voce alle nostre potenzialità. Senti, ma le tecnologie del 4.0 tra l'altro sarebbero molto utili e molto importanti in questo momento, se maneggiate un po' da tutti, oltre che dalle donne. Bravissima, tant'è che chi, diciamo, come me ha la fortuna di poter lavorare di fatto con le tecnologie, quindi in smart working, tutta, diciamo, le conseguenze drammatiche di ciò che sta accadendo le posso un po' attutire. Chi invece fa lavori tradizionali di fatto non va più a lavorare, quindi questa crisi ci mette proprio in evidenza come le tecnologie, se gestite, se conosciute, possono essere un ottimo alleato delle donne, ed è su questo che noi stiamo lavorando con la community, perché crediamo che le tecnologie possono essere proprio un volano di libertà, di identità, e poi quello che noi chiamiamo la sorellanza digitale. Quindi le tre parole che io nel libro un po' porto avanti sono competenza e cuore e coraggio, quindi credere che le donne hanno le competenze per poter fare una differenza, e ciò che spesso manca alle donne è proprio il coraggio, quindi la consapevolezza che tantissime barriere che noi abbiamo sono interne, non sono reali, e poi il cuore, perché insomma tutto si fa con la passione, mettendoci l'anima, e quindi sicuramente questo è un po' il messaggio che con la community stiamo portando avanti. Ma volevo capire una questione, nel senso che appunto parliamo di donne 4.0 e intanto da un lato mi chiedo che cosa sono esattamente le donne 4.0, e dall'altro la cosa che le vorrei chiedere è nel momento in cui appunto si parla di tecnologia, io mi sarei aspettato che il gap si sarebbe ridotto, quello diciamo di genere fra maschi e femmine, perché non capisco perché mai su questioni tecnologiche dovrebbero essere più bravi i maschi piuttosto che le femmine, magari su altre cose storicamente così si diceva, la forza fisica, tutte queste questioni qui, ma sulle questioni tecnologiche onestamente non capisco. E allora le volevo chiedere come mai secondo lei addirittura c'è un stiamo peggiorando da questo punto di vista. È proprio così, infatti donne 4.0 rappresenta, attenti alla tosse, sì davvero. Avvisiamo tutti gli ascoltatori che non siamo nello stesso studio e che via telefono non si attaccano le malattie. Anzi, chiamate i nonni, chiamate i parenti, che fate bene. Davvero, qui veramente uno ormai c'è l'angoscia di soffrire di tutto. È vero. Allora, proprio è questo il punto, che le tecnologie, quindi l'industria 4.0 può essere un volano se le donne lo capiscono, se sono partecipi, ma se pensiamo che soltanto il 13% delle donne, diciamo della forza lavoro nel mondo tecnologia è rappresentato dalle donne, c'è un bias culturale che fa sì che le donne non scelgono lauree tipo l'informatica, l'ingegneria, quindi questo divario di genere paradossalmente si sta ampliando e sta prendendo anche un nuovo nome nuovo che si chiama Digital Gender Gap, quindi non solo le tecnologie se non stanno non vengono usate e capite dalle donne e non creano delle opportunità, ma ci possono proprio espellere ancora di più dal mondo lavorativo. Quindi il focus nostro è dire alle donne 4.0 che non sono per forza tutte laureate in informatica, ingegneria, tutt'altro, ma guardate che le tecnologie devono essere conosciute, usate. Prima si parlava dell'intelligenza artificiale. Esatto, perché poi c'è sempre questa cosa che uno deve, ma io non ci capisco niente, ma tu non devi capire com'è fatto il computer, te lo devi usare, tutto lì, come si usano la macchina, l'automobile, no, qualunque Bellissimo. Cosa. Esatto, la lavatrice. Quindi vale, io devo anche sapere. All'incontrario, a proposito di lavatrici, cioè ci sono uomini che si trincerano dietro, ma io non la so fare. La tecnologia della lavatrice io non la comprendo, è troppo difficile per me, ovviamente. Ma non la devi costruire, caro Carlo, la devi usare. Ma è ho un problema diverso, perché comunque sto con il mio compagno, quindi devo convincere comunque che è più bravo lui, che è sempre uomo è. Ma l'intelligenza artificiale proprio ci sta dimostrando che l'intelligenza artificiale come funziona? Prende dati, trasforma i dati in conoscenza, quindi se questi dati vengono gestiti solo da uomini che ci mettono dentro senza volerlo dei bias che si chiamano inconsci, quindi stereotipi, pregiudizi, ciò che stiamo creando, cioè il mondo che stiamo creando sarà un mondo ancora più potenziato da bias e pregiudizi. Ecco perché le donne ci devono essere, le donne devono saper usare questi sistemi in un modo intelligente, ma anche saperli creare. Quindi l'invito che la community fa a tutti è: non possiamo avere quello che un mio amico chiama la badante digitale, il badante digitale. Noi dobbiamo sapere utilizzare queste tecnologie, saperle creare e saperle utilizzare per il bene di tutti. Questi giorni quello che ho molto apprezzato è il ruolo apicale delle donne nella gestione del coronavirus, donne che hanno capito che il primo caso poteva essere davvero il coronavirus, donne che hanno isolato il ceppo. Quindi la presenza femminile è, come dire, ormai è dimostrata. Purtroppo in alcuni settori, vedi l'informatica, vedi l'ingegneria, siamo ancora troppo poche, questo è il punto. Ma l'intelligenza artificiale è maschio o femmina? L'intelligenza, secondo me, ora qui do un assist a tutte le donne, è femmina. Però... giusto, però va bene, ve lo concedo oggi. Carino. Ma io penso che comunque le donne siano più intelligenti, non in senso artificiale, sì, proprio nella realtà. Quindi non... Ormai è dimostrato che l'intelligenza, quella che noi definiamo intelligenza, quindi quella logica, non è l'unica intelligenza. C'è l'intelligenza emotiva, c'è l'intelligenza empatica. E sicuramente la presenza delle donne nei ruoli apicali porterebbe una leadership inclusiva molto più, come dire, armoniosa e molto più collaborativa. Quindi ecco perché la presenza delle donne è importante ed ecco perché noi abbiamo messo a punto un corso proprio di formazione su questi temi che stiamo portando da città in città. E anche la community attraverso l'ambassador sta creando per città in città dei circoli tematici, quindi invito veramente tutte le donne a uscire dalla propria comfort zone e a capire che ci sono delle esperienze belle intorno a loro e di far rete, quindi la sorellanza digitale, per far sì che queste competenze non rimangano nei bordi e nei confini maschili. Grazie Daria, e io direi in questo momento i circoli possono formarsi anche, no, su piattaforme digitali, così si fa già un po' di allenamento, e ci si esercita per lo smart working e così via, e si fa la sorellanza digitale. Le devo girare un bacio, è arrivato un messaggino che dice: grande donna, datele un bacio virtuale da parte mia. E quindi, nonostante la tosse. Esatto, ma è un bacio virtuale via WhatsApp, lei al telefono, siamo assolutamente protettissimi. Nell'area di copertura e di protezione assoluta. E sai, invece, a proposito di persone cui dobbiamo, forse possiamo farle tutti insieme gli auguri, una bella signora di 81 anni che compie oggi gli anni, in realtà ha telefonato al nostro centralino, non credo riusciremo a sentirla, ma facciamole gli auguri. Festa della donna, giornata bellissima, io compio gli anni, a Firenze c'è una bella aria pulita e io mi farò, penso, una passeggiatina, e sono una splendida ottuagenaria, ha detto. Che bellezza. Bellissimo. Che bellezza. Auguri alla bellezza. Signora. Mettiamola in rete anche lei, nelle donne 4.0, anzi 8.0 nel suo caso. Fantastica. Assolutamente. Grazie noi Daria. Tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona festa a tutte. Grazie. Una piccola pausa e poi proseguiamo a proposito di donne informatica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Rientriamo con un concorrente, anzi una concorrente per il nostro indovinello. Si chiama Francesca, chiamato da Firenze, quindi Firenze oggi ci ascolta. Buongiorno Francesca. Buongiorno, sono invecchiata un anno aspettandovi. Buongiorno. No, facciamo la prossima festa della donna. Ma è il suo compleanno? No, sono nata il 14 febbraio io, quindi proprio c'ho un'altra San data. Valentino. Ma allora tutte date simboliche oggi. Sì, ma io sono una vostra affezionata, vi chiamo ogni tanto a rompervi le scatole. E noi ne siamo felicissimi. Noi non ci rompe le scatole, ci fa piacere. Esatto. Bene, senta, sentite, allora tanto grazie degli auguri e auguri a tutti voi, anche agli uomini che grazie a Dio incominciano ad avere un cervello un po' più aperto e più disponibile. Grazie. E niente, per me è il Papa, perché ha dimostrato che si possono usare i sistemi telematici, l'ha messo in pratica, invece tutti questi del calcio, perché ci sono soldi dietro, non lo fanno, quindi ha dimostrato, così ha dato l'esempio che si può fare qualcosa a questo livello non togliendo niente a nessuno. Stiamo parlando dell'Angelus in streaming? Sì. La notizia è che poi precisissima. Ci sono schiere di persone che ascoltano la televisione, ovviamente. No, quindi, cioè, è sempre stato un grande classico. È sempre stato un grande classico. La messa la domenica su Rai 1. Mia mamma, che non ci andava a messa con la scusa che le dava fastidio il Vincenzo, lo ascoltava sempre per televisione. Ah, quando è arrivato. Dice tante che è una persone scusa. Anziane che... Sì, mamma, per mamma era una scusa. Cioè, in realtà non voleva andare a messa. Non le piaceva. L'assembramento a lei non è mai piaciuto in qualche modo. Io ho conosciuto persone a cui non piaceva la stretta di mano, ad esempio. Ah, ecco. Beh, esempio, direi assembramenti, strette di mano, è tutto ante l'Instagram. Esatto. Sentiamo il nostro notaio. Ma che? Non è neanche che Papa Francesco. Non era il Papa. A me ho chiacchierato con voi. Buona. E noi con lei, grazie Francesca. Buona giornata. Grazie. Posso dire che al momento anzi no, niente, era una stupidata. Andiamo avanti. Andiamo avanti. We passed upon the stairs, spoken walls. E andiamo avanti parlando ancora di donne e tecnologie. Questa volta in collegamento abbiamo Filomena Floriana Ferrara, direttrice della Fondazione IBM Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito poco fa Daria Magidi che ci diceva, insomma, le donne scelgono poco l'informatica, scelgono poco materie di studio di questo tipo. Voi tra l'altro avete un progetto specifico, leggevo, su questo, che si svolge in 9 città italiane, esatto, con diverse università coinvolte, 800 scuole, 12.000 esatto, studentesse. Che cosa cercate di trasmettere in questi incontri? Allora, prima di tutto Daria è una mia amica, quindi ero felicissima di sentire lei anche collegata. Mi siete passate la palla. Sì, infatti, ci siamo whatsappate, come diciamo. Giusto. Hai capito cosa fanno alle nostre spalle. Allora, il progetto si chiama Progetto Nerd, dove per nerd si intende non è roba per donne. Ed è un quindi progetto... nerd, chiedo scusa, trasformato in un acronimo, non è roba per donne, per donne. E poi con un punto di domanda però, esatto, perché esatto, in realtà è roba per donne. È roba per donne, quello che facciamo è proprio questo, dimostrarlo. Tutto è iniziato nel 2012 con la professoressa Velardi della Sapienza, che ha contattato l'IBM, io sono appunto un IBM, e ci ha chiesto di trovare un metodo per far avvicinare le donne, le ragazze delle scuole superiori a questo mondo, al mondo della tecnologia, in particolare all'informatica. E qui abbiamo studiato un progetto che ha portato in tutti questi anni, come dicevate prima, 12.000 ragazze all'interno dei laboratori di informatica. Perché che cosa succede? Noi andiamo su queste 9 città e lavoriamo con le università informatiche italiane. Il venerdì pomeriggio accompagniamo fuori dai laboratori gli studenti universitari ed accogliamo le studentesse di 15, 16, 17 anni e lasciamo che loro possano assaggiare l'informatica provandola. Che cosa insegniamo? Quello del quale stavate parlando prima, l'intelligenza artificiale. Che maschio o femmina, come chiedeva Carlo, secondo lei? Mi è piaciuta tantissimo la risposta di Daria, è stata di Daria, ovviamente, però ahimè, scherzi a parte, la cosa positiva di tutta la tecnologia è che non è né maschio né femmina, è asessuato, anzi. E questo secondo funzione. Me, scusa se ti interrompo, questo secondo me è veramente il punto, è per questo che chiedevo, è maschio o femmina l'intelligenza artificiale, perché in realtà nulla come un'intelligenza artificiale è sicuramente asessuata, è sicuramente... È come domandarsi il sesso degli angeli. E infatti mi stupisce, la cosa che mi chiedo è come mai le donne si avvicinano meno alla tecnologia, perché temo che sia un antichissimo retaggio, che è quello della matematica. Siamo esatto, ancora a quello? Esatto, è uno stereotipo di genere che ahimè c'è ancora adesso nel 2020, che vuole cosa? Che le donne non siano portate per informatica, ma attenzione, quello che abbiamo scoperto, e questo sempre grazie a una ricerca fatta internamente, fatta con IBM, abbiamo scoperto che sono le donne stesse a pensare di non essere portate per il mondo dell'informatica, perché in realtà le aziende tecnologiche, i centri di ricerca stanno cercando personale femminile, ma ci sono poche donne competenti in questo, formate in questo settore. Quindi siamo noi donne che indossiamo questo abito di competenti e diventiamo ciò che gli altri si aspettano che noi siamo. Certo. Quindi vogliamo corrispondere a un modello, esatto, sostanzialmente. Esatto. Se posso dare il mio contributo, io vorrei dire che siamo tutti spaventati dalla tecnologia, tutti pensiamo di non esserne in grado, tutti pensiamo di non essere abbastanza intelligenti. È semplicemente che le donne che sono più intelligenti lo ammettono più candidamente, ma ugualmente noi siamo tutti un po' così che diciamo, boh, la capiremo questa cosa. Quindi, ma è semplicissima, esatto. È semplicissima. Ci sono cose molto più complicate. È veramente semplice e lo si sta dimostrando proprio in questi tipo giorni. Tipo stirare una camicia, volevo fare una battutaccia così proprio maschilista, scherzavo ovviamente. E tornando invece al progetto NERD, appunto queste ragazze, proprio in questi giorni abbiamo 2000 ragazze che contemporaneamente stanno creando il loro progetto, e il 5 di aprile lo consegneranno. Ovviamente fanno i loro progetti a casa, ognuno a casa propria. E poi consegneranno e vedremo, i progetti più belli saranno premiati, e il nostro successo è il vedere che poi dopo che queste ragazze dopo 2-3 anni si devono iscrivere nelle varie facoltà universitarie, molte di loro scelgono informatica. E adesso, quindi basta avvicinarsi, diciamo, se si avvicina alla materia, esatto, per bene, per tempo, anche perché poi dopo se si va troppo avanti con l'età, esatto, magari ci sono più remore e più anche sovrastrutture, no? Perché poi subentrano tutte una serie di... No? Si ha paura di avvicinarsi troppo tardi. Cosa facciamo in realtà? Le ragazze a 13 anni scelgono il loro percorso scolastico, le loro scuole superiori. Però non è detto che a 13 anni abbiano già compreso in cosa sono un talento, in cosa sono portate. E così con il progetto NERD, ma sinceramente ce ne sono tanti di progetti molto simili, il progetto NERD di IBM, cosa facciamo? Concediamo alle ragazze il beneficio del dubbio, concediamo un'altra chance di provare che si possa significare. Sì, stavo considerando alcuni messaggi che sono arrivati, però non trovo. Cioè, l'istruzione primaria da sempre in mano alle donne, specialmente ora, allora perché non gli avete insegnato la parità? Per certe cose intanto si imparano più in famiglia, che non possiamo demandare alla scuola. Cioè, se uno arriva a 6 anni che ha già un modello in testa, è un po' più difficile poi intervenire. E poi forse perché donne, a differenza degli uomini, non sono così territoriali e non vogliono, diciamo, vincere la partita, quindi non è che ne approfittano. Siamo meno competitive. Esatto, e quindi non è che dice, siccome siamo noi a insegnare, adesso gli insegniamo a tutti i bambini che sono meglio le donne. Quello è un pensiero molto maschile, diciamo, ecco. Ma io volevo farti una domanda, poi non so se è leggermente diversa, anche approfittando del fatto che lavori in IBM. Mi chiedevo, in questo momento di smart working, in questo periodo dove si dice, no? In questo momento addirittura si dice no, basta, stiamo tutti a casa, facciamo lo smart working per la questione del virus, ti chiedevo un po' com'era messa l'Italia secondo te, se siamo pronti a questo passaggio, anche solamente dal punto di vista delle reti, delle tecnologie, senza entrare negli specifici che uno dice, il mio datore di lavoro non sa neanche accendere il computer. No, questo non capita con il mio, anzi il mio amministratore delegato. No, da voi non capita, ma in molti uffici capita. Esatto. Come no? La cosa che sto notando è la velocità, però questa accelerazione, quindi questo correre allo smart working sta dando dei risultati incredibili, dove ovviamente è possibile, perché giustamente ci sono tipi di lavoro, dei parrucchieri, falegnami, o i venditori che non possono, di finestre che non possono, certo, farlo da remoto. Ma dove è possibile stiamo notando una grande accelerazione. Nel nostro caso tutte le aziende informatiche, in IBM in questo caso, era già dotato di smartphone, di computer portatili, di strumenti e software, per cui sinceramente per noi, io che lavoro dentro Roma, trasferirmi, abito ad Albano, è stato un attimo, il mio lavoro non ne sta risentendo. Quindi ma la velocità con la quale gli italiani stanno accelerando le loro abitudini mi sta sorprendendo tantissimo, perché io sono il direttore di una fondazione, la Fondazione IBM, e stiamo supportando soprattutto le scuole con la didattica a distanza. Quello è un grandissimo, certo, una grandissima questione, un grandissimo tema. Beh, qui le scuole per le regioni interessate, ad esempio, fino al 3 aprile sono chiuse, quindi sono altri 15 giorni. Ed invece tutti quanti stanno seguendo le indicazioni della ministra Zorina, e che stanno facendo si stanno organizzando per la didattica a distanza, la didattica domestica. Quindi direi che questa ansia del coronavirus e questo aver chiuso giustamente, secondo me, le scuole sta portando a far sì che ci sia un'accelerazione, come dicevo prima, nell'utilizzo delle tecnologie per insegnare, studiare, svolgere i compiti a casa. E noi nel particolare siamo in partnership con Cisco, e Cisco ha dato a disposizione la piattaforma Webex, e i volontari IBM, quindi tutte le persone, il personale IBM è anche un volontario, mettendo a disposizione la propria passione, la propria energia, le proprie competenze informatiche. In questo momento stiamo uno ad uno riuscendo ad essere un referente per tutte le scuole che ci stanno contattando. Quindi venerdì mi ho fatto partire una scuola di Codogno, l'Istituto Tecnico Scientifico, e loro faranno lezione da remoto. Ieri pomeriggio, incredibile ma vero, ma è bellissima, una scuola elementare di Milano ci ha contattato, abbiamo fatto delle prove e abbiamo insegnato a delle maestre in 10 minuti come collegarsi e come poter fare lezione affinché i suoi alunni la possano guardare, lei possa guardare tutti i suoi alunni. Quindi questa sarà una grandissima accelerazione, siamo sorpresi, ci aspettavamo solo scuole superiori e invece anche le scuole medie, le scuole elementari stanno accelerando. Quindi l'Italia sta comprendendo di dover imparare a lavorare con il digitale, la trasformazione digitale sta avvenendo velocemente. Scusa, devo farti una domanda perché è arrivato un messaggino e nessuno meglio di te credo che possa rispondere a questa domanda. Le donne non sono astratte, per quello non sono adatte all'informatica. Però c'è anche la contraltare, no. Poi un altro che scrive l'opposto. Devi smontare questa buffonata. Essere un informatico significa essere un artista moderno, perché così come un pittore crea la sua opera d'arte a partire da una tela vuota bianca, lo scrittore crea la sua opera d'arte partendo da un Word bianco, da un foglio bianco, bene, l'informatico crea la sua opera d'arte partendo da un monitor con il linguaggio di programmazione. Ma dobbiamo smontare, però le donne non sono astratte. No, sono assolutamente, assolutamente. Le donne sono creative, le donne sono pronte a lavorare in questo e a fare campo. Con il famoso pensiero laterale, no? Esatto, e ce l'abbiamo. Ma siamo particolarmente brave. Perché che cosa succede? No, fermiamoci qua, dai, chiudiamo, ricordiamo su praticamente brave. Ho apprezzato moltissimo quando hai fatto come esempio da remoto il parrucchiere, perché per un momento mi sono immaginato qualcuno in smart working che da casa dice: no, tagli un po' più su, questo colore non va bene. Va bene, grazie molte. Filomena Floriana Ferrara, come dicevamo, direttrice della Fondazione IBM Italia. Buon proseguimento. Abbiamo una pausa per la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora abbiamo un altro concorrente per il nostro gioco, si chiama Procopio, ci ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi, buongiorno. L'abbiamo tenuta un po' in attesa, ma adesso ci siamo, dai. Bene. Chi è secondo lei il personaggio della settimana? Ma secondo me potrebbe essere il comandante della Mobile Prince, quello che poi è stato insignito anche dal Presidente della Repubblica, adesso non ricordo perché la notizia l'ho letta o l'ho sentita così spot da parte del Presidente della Repubblica, di un'onorificenza che io trovo meritatissima, non meritata, perché in momenti di difficoltà, in momenti in cui i costumi sono un poco così trascurati, insomma, avere una persona che si attiene a quello che è la sua responsabilità, insomma il comandante che deve lasciare, che ha lasciato per ultimo la nave in occasione, diciamo, della quarantena che c'era stata, secondo me è un personaggio positivo che dà fiducia e che è in linea, insomma, con quanto è tutto giusto. C'è anche la notizia di sicuro, ma non c'è il nome, però. Il nome non lo so. Perché se non sbaglio temo che abbia... Vabbè, chiediamo al notaio. Cioè, ma la cosa importante per me era, siccome è passata poco questa notizia sui giornali, i media ne hanno passato poco, la cosa importante per me era quello di dare questo messaggio, di far presente, diciamo, che questa questo signore, diciamo, che certe cose si possono fare. Esatto. Quindi dai, il notaio è stato bravo. C'è, giustamente. È stato buono, perché c'era anche un errorino in quello che ci ha detto, perché gli è scappato Moby Prince, gli è passato Moby Prince. Esatto. E allora lì c'è stato un momento. Comunque è Gennaro Arma il nome del comandante, che, come giustamente lei ci ha raccontato molto bene, ha descritto molto bene, ha fatto come devono fare tutti i comandanti ed è sceso per ultimo. Diciamo, è un po' l'antischettino, se possiamo citare storie che tutti conosciamo. E poi è dello stesso di Sorrento, sicuramente regione, senz'altro. Allora un pareggio e ne siamo contenti. Va bene, ci grazie. Porta a casa il libro misterioso, esatto, diciamo così. E grazie mille di aver chiamato. Grazie anche per l'appello, Arma, diciamo, alla nazione, insomma, a tenere il timone, la barra dritta. Come bravissima. Si barra dritta. Oh, e quindi adesso cosa abbiamo? È il tuo momento. Premio L'altro pianeta. Il premio L'altro pianeta lo assegniamo questa settimana a voglio mantenervi un po' di suspense a Krill Design. Non voglio dire come è stato scritto erroneamente sulla nostra scaletta. Ivan Calamai, buongiorno, ne è il CEO, un studio di design, appunto. Buongiorno. Noi siamo rimasti affascinati dall'idea, poi lei ci ha un po' spiegato che non è precisamente così, ma di quello che abbiamo trovato sul quotidiano Repubblica qualche giorno fa, della possibilità di trasformare il caffè dei bar, gli scarti ovviamente, una volta fatto il caffè, in addirittura sgabelli. Allora, abbiamo scoperto che voi siete specializzati in questo, cioè voi studiate esattamente come trasformare uno scarto in qualcos'altro, no? Esattamente. Il nostro business è proprio quello di creare progetti di economia circolare, dove andiamo a recuperare degli scarti che ormai non hanno più nessun valore o addirittura rappresentano un costo, in particolare nell'ambito alimentare, dove appunto gli scarti alimentari non più edibili non hanno nessuna alternativa di riciclo se non quella di finire in discarica. E cerchiamo di dare nuovo valore creando appunto dei materiali che nascono proprio dal recupero di questi scarti, come possono essere i fondi di caffè, le bucce d'arancia, i gusci della frutta secca e molti altri. E con questi materiali andiamo poi a creare dei prodotti di design, dei complementi d'arredo che o servono all'azienda stessa che ha generato questo scarto, e quindi si crea un ciclo di economia circolare proprio interno alla stessa realtà aziendale, o vanno altrove, dei certo, prodotti che vendiamo poi sul mercato. Beh, quando restano all'interno è in qualche modo fantastico, più magico, perché dici sto bevendo questo caffè, dice sa di che cosa hai fatto lo sgabello sul quale hai seduto, ecco, degli stessi fondi di caffè dei 6.000 le bucce d'arancia precedenti. No, le bucce, esatto, d'arancia del, esatto, progetto che avete fatto per Autogrill, e poi sono diventati per l'appunto delle, no, sono rimasti, esatto, complementi d'arredo per Autogrill. Esattamente così, infatti il progetto prevede proprio che il cliente, dopo aver preso la spremuta al banco, poi vada a sedersi su questi sgabelli che nascono proprio dal recupero delle bucce d'arancia, e quindi in qualche modo c'è una continuità anche di uso all'interno dello stesso spazio. Ma senta, poi se ho ben capito, siccome questo scarto organico diventa un biopolimero naturale, e poi dopo è anche biodegradabile, quindi uno poi quello sgabello lo può rimettere in... lo può mangiare. Non si può mangiare, però è biodegradabile, è compostabile, quindi poi può avere un fine vita naturale, ma è anche riciclabile, quindi quel materiale lì col quale vengono realizzati, dovesse ad esempio rompersi lo sgabello, può essere riciclato, rifuso per generare poi un nuovo sgabello o un nuovo prodotto. Io devo chiedere una cosa, come avviene la raccolta della materia prima? Cioè, come fate a raccogliere le bucce d'arancia? Andate dalla stessa Autogrill e gliele chiedete? Oppure... appunto dal bar dell'area, no? Adesso siete sul quartiere di Milano, Bovisa, Darniano, quindi un quartiere dove viene svolta questa sperimentazione. Come funziona? Esatto, allora a seconda del tipo di progetto e del tipo di cliente, ovviamente c'è un sistema di logistica che va organizzato. Nel caso del progetto di quartiere, noi passiamo quotidianamente a raccogliere i fondi di caffè dagli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto, quindi ci occupiamo noi di in qualche modo centralizzare la raccolta e poi lavorare il materiale, e la produzione poi stessa dei prodotti viene sempre generata all'interno del quartiere, perché abbiamo coinvolto una serie di centri di stampa 3D che realizzeranno i prodotti sempre in loco. Quindi quello che abbiamo cercato di fare nel caso del progetto Coffiera è proprio questo: generare un ciclo virtuoso che rimane completamente all'interno del quartiere in tutte le fasi della filiera produttiva. Ma è semplice questo? Ci sono norme, tipo norme igieniche, la ASL, il fatto che sono scarti, abbiamo dovuto fare un decreto apposta per poter riportare le bottiglie che si trovano in mare, quindi mi chiedevo se incontravate delle difficoltà, allora, o se c'è un'apertura. L'aspetto normativo è la criticità ovviamente principale che c'è. Certo. Oggi in realtà dal 2016 con una nuova legge sui sottoprodotti facilita in qualche modo questo processo, perché alcuni scarti che possono essere classificati come sottoprodotti e quindi riutilizzati all'interno di una filiera produttiva si possono gestire. Come classificare uno scarto come vero e proprio scarto da mandare in discarica o sottoprodotto, ecco, insomma, è un aspetto sempre abbastanza delicato e molto spesso dobbiamo trovare degli escamotage per poter riuscire in qualche modo a far funzionare il progetto. Grazie. Dobbiamo fermarci perché ci mettono il giornale radio, sennò che me ci parla sopra. Allora, Ivan Calimani, ricordo, Krill Design è il CEO. Grazie a tutti voi che avete reso possibile questa puntata: Danilo Di Trani, Edoardo Lavezzari, Andrea Piana. Da Laura Bettini un buon proseguimento, anzi ricordo anche, scusate, Carmelo Lauricella in regia e Matteo Ramelli oggi in assistenza. Da Laura Bettini un buon ascolto, abbiate pazienza e prudenza. E da Carlo Gabardini ciao, a sabato e a domenica prossima.